primo turno, lunedì sulle mie tensioni, mie tensioni. Non posso più fare niente senza pagare mantenere in barca appartamenti, lusso, bella vita, i pezzi di merda che non fanno altro che sfruttare me. Devo comprare in giro al mondo, devo comprare il diamantino, devo comprare la cocaina, devo comprare la villa a Capri, devo affittare tre puttanoni e nella festa due macchinoni accompagnato da corridori e gli operai si tirano i coglioni. Da corridori e gli operai si tirano i coglioni. Devo comprare